padre latino. Scarso rilievo di cui è in diretta testimonianza l'esiguo numero di edizioni critiche. Due sole eccezioni, ambedue recenti, sull'insieme delle sette opere, quella di Lardè dell'Apologia e dell'Epistola contro Rufino e quella di Moreschini del Dialogo contro i Pelagiani. Anche sul piano degli studi critici il panorama resta abbastanza povero. Di recente è stata soprattutto la compianta Ilona Opelt, seguita ora da qualche suo allievo, a prestare una specifica attenzione a tale aspetto dell'opera geronimiana. I suoi lavori sono però prevalentemente descrittivi e solo marginalmente prendono in considerazione il ruolo della Bibbia come elemento della polemica. Ben altrimenti puntuale e analitico invece il commentare all'Apologia contro Rufino di Lardè, fra le cui pieghe si celano, per chi ha la pazienza di cercarli, autentici tesori di erudizione e di sensibilità letteraria, anche per ciò che qui ci riguarda. L'assenza di studi sul nesso Bibbia-polemica in Gerolamo trova un'ulteriore spiegazione nelle difficoltà oggettive che presenta un'indagine in questa direzione, anche e soprattutto per la mancanza, come dicevamo, di un testo affidabile per cinque delle sette opere di riferimento. Ciò fa sentire il suo peso soprattutto nelle ricerche inerenti il testo delle citazioni bibliche. Nei prossimi anni speriamo che vedano finalmente la luce le edizioni annunciate di tutte le altre opere. Ma le difficoltà non sono legate solo alla storia degli studi geronimiani e alle vicende del testo. Concernono la definizione di una rigorosa metodologia di indagine e il senso stesso per nulla univoco del nesso Bibbia-polemica. Quanto al primo punto, è necessario un rilevamento sistematico e puntuale di tutti i dati relativi alle molteplici forme che la scrittura assume nelle opere considerate. Forme collegate da relazioni reciproche e con i contesti da valutare attentamente. Per quanto invece riguarda il nesso sovrindicato Bibbia polemica, esso stesso non si esaurisce certo nei due poli che lo costituiscono, all'interno dei quali si presenta una vasta gamma di possibilità e di aspetti per i quali occorrono spesso metodologie di approccio diverse. Se ad esempio lo studio dell'impatto della polemica sul testo delle citazioni bibliche richiede strumenti prevalentemente filologici, la valutazione degli scarti e la comprensione delle funzioni attengono piuttosto alla sfera della retorica e della critica letteraria o per altri versi alla storia del dogma. Insomma, una grande cautela metodologica e un'articolata gamma di modalità di approccio sono necessarie per non appiattire il senso dell'intera ricerca e non vanificarne i risultati. È proprio questo il limite di un recente articolo di Heyman sull'uso polemico delle scritture nell'Adversus Iovinianum, apparso in Studia Patristica del 1975. Articolo stimolante e intelligente, senza dubbio, ma confuso nei piani delle realtà che prende in considerazione e soprattutto privo di quel retroterra di indagini che è assolutamente necessario per pervenire a conclusioni affidabili. Il suo intento dichiarato è quello di restituire coerenza a ciò che può apparire, cito, un'incursione disordinata da parte di Gerolamo nel campo delle citazioni bibliche. Egli però finisce col pervenire invece a conclusioni di segno opposto e che specialmente ripropongono vecchi stereotipi interpretativi. Un Gerolamo che proseguirebbe la tradizione romana, il cui uso polemico della scrittura si risolverebbe in un labirinto di intuizioni parziali e di imbocchi di strade verso la verità mai percorse fino in fondo. Quel che serve, in realtà, non è pervenire troppo rapidamente a sintesi e conclusioni, quanto effettuare un lavoro analitico che rilevi e prenda in considerazione tutte le possibili forme in cui la Bibbia si presenta all'interno degli scritti polemici. È in questa direzione che intendiamo muoverci e nelle pagine che seguono accenneremo ad alcune piste di ricerca e a problemi concernenti in specifico le citazioni e i riferimenti, le esegesi e gli exempla. Citazioni e riferimenti. Chiunque si accosti agli scritti polemici di Gerolamo resta affascinato dal mosaico sempre cangiante a cui danno vita le diverse tessere delle reminiscenze del testo sacro. Citazioni e riprese letterali, accanto ad allusioni, riferimenti verbali e contenutistici, riflessi linguistici e stilistici. Tutto un universo di segni che rivela una profonda cultura biblica e nel contempo è espressione di un'abilità letteraria e di studiate strategie controversiali. Non occorre ovviamente soffermarsi a questo proposito sull'autonomia dello stile polemico, che ha principi, regole, tradizioni suoi propri e prima norma del quale la sconfitta dell'avversario con tutti i mezzi. Le necessità del genere condizionano anche il ricorso al testo sacro. Se la Bibbia, come fonte di ispirazione per dare forza ad argomenti ed esposizioni, è certamente comune a tutti gli scritti cristiani, in quelli controversiali però essa non è alla base di ragionamenti organici articolati come in un trattato teologico, ma si presenta col peso della sua autorevolezza per sostenere consolidate tesi dogmatiche e confutare posizioni eterodosse. La Scrittura è fonte di una dottrina che ha in sé la sua coerenza, della quale hanno piena percezione il polemista e il suo pubblico, in grado appunto di cogliere i nessi fra i singoli riferimenti e la globalità dell'insieme. Le citazioni bibliche rafforzano il senso che lo scrittore già possiede dell'unità della sua fonte, autenticano ed amalgamano, per così dire, le verità essenziali in discussione. Coerenza e unità non vanno dunque cercate in esse, ma nel quadro di riferimento, nella dottrina che fa da retroterra all'argomentazione. Il carattere spesso implicito, addirittura impressionistico, dei riferimenti scritturali nei trattati polemici è un aspetto del genere. Lo studioso che ne voglia ricostruire la mappa deve pertanto, come l'antico lettore, saper collegare e completare i fili che li legano. Nella stessa chiave vanno lette le possibili manipolazioni del testo sacro. Essendo questo, il testo sacro, cioè una delle armi in mano al polemista, può essere ed è sovente usato senza scrupoli, oggetto di interventi spesso tendenziosi, sempre comunque mirati, ora evidenti, ora sottili. Da ciò non si può certo inferire, come fa Heyman, che gli scrittori cristiani siano indifferenti alla verità. È solo che questa per loro risiede non tanto nelle singole parole della Scrittura, quanto nella loro interpretazione, corroborata dalla tradizione esegetica e dottrinaria della Chiesa. Scripture non in leggendo sunt, sed in intelligendo, obietta Gerolamo agli eretici che pretendono di fondare su di esse i loro dogmi nell'altercazio luciferiano e ortodossi. E ad Elvidio, bersaglio della sua seconda polemica, rinfaccia che si può leggere il testo sacro senza saperne penetrare le verità. La citazione scritturaria quindi non è in sé autosufficiente, è legata alla sua esegesi e all'ortodossia di fede. Lavorare con le citazioni, si sa, è difficile, come dimostra lo stesso atteggiamento degli editori di testi patristici, talvolta oscillante fra i due eccessi della moltiplicazione immotivata delle referenze bibliche e delle più eclatanti omissioni. Accanto ai problemi ecdotici, c'è poi la valutazione del ruolo che citazioni e riferimenti patristici hanno nella ricostruzione della storia del testo sacro e delle sue versioni, ma soprattutto, per quel che qui ci interessa, quella della valutazione della loro funzione strutturale all'interno degli scritti polemici. Lardè e Moreschini hanno mostrato quanto poco sia affidabile anche per le nostre opere il testo edito da Vallarsi, e ciò vale a maggior ragione per le citazioni bibliche, soggette più facilmente delle altre parti ad interventi normalizzatori dei copisti o degli editori umanistici e controriformistici. Non siamo per il momento in grado di precisare termini e dimensioni di questo processo, di cui abbiamo però più di un indizio. Ora, chiunque abbia una certa familiarità con Gerolamo sa bene che il suo modo di citare la Bibbia è il più lontano dal poter essere normalizzato. Per limitarci al testo, talvolta egli riporta alla lettera l'una o l'altra delle vecchie versioni latine, tal'altra traduce direttamente dal greco, e per quanto riguarda il Vecchio Testamento, ora riproduce la 70, perfino in contesti dove proprio questa è messa in discussione, ora la sua versione dall'ebraico, ora altre versioni dal greco, anche proprie. Alla mancanza di sistematicità si aggiungono soprattutto nei nostri scritti gli interventi intenzionalmente manipolatori, per cui in assenza di una sicura testimonianza della tradizione o di adeguati riscontri interni alla stessa opera geronimiana, è davvero arduo stabilire con sicurezza il testo di una citazione biblica in bocca al Gerolamo controversista. Nonostante tutte le difficoltà che essa presenta, però, la pista d'indagine nella direzione del testo biblico di riferimento e delle versioni adottate è fra quelle che promettono risultati più interessanti, come già mostrano i casi confermati da riscontri interni o esterni. A parte gli ovvi aspetti filologici e le connessioni con la storia del testo sacro, la valutazione delle scelte di traduzione, nella valutazione delle scelte di traduzione bisogna tener conto dei contenuti della disputa affrontata, come nel caso della citazione di Romani 12:3, di cui mi sono occupato altrove, dove la scelta di rendere con pudicitiam il greco tosophronein appare assolutamente forzata, determinata dal contesto tutto a favore della verginità e della continenza. La conferma della intenzionalità della scelta viene anche dal fatto che nell'altra citazione dello stesso versetto, che ricorre due sole volte in tutta l'opera geronimiana, nel commento ai Galati, anteriore di circa 6 anni all'adversus Jovinianum, egli stesso aveva usato sobrietatem. Né essa ricorre in altri autori che citano il versetto come Ilario e Agostino. È un esempio efficace, mi sembra, di quegli interventi tendenziosi di cui parlavamo prima. Al di là di questi, comunque, le citazioni bibliche possono presentare, come avveniva normalmente per i padri, omissioni, interpolazioni, rimaneggiamenti consistenti. Questi, se intenzionali, sono spie di prim'ordine per cogliere il senso del richiamo di questo o di quel testo biblico e meritevoli pertanto di un'attenzione particolare. Al di là delle singole scelte concrete, c'è poi l'eventualità che il problema teorico della traduzione diventi in sé centro di discussione, e l'esempio più significativo, ce l'ha ricordato poco fa Sandro Leanza, è all'interno della disputa che oppone Gerolamo a Rufino, a cui si lega la stessa disputa anche la questione del canone. Il nesso fra traduzioni e canone è al centro di uno studio di Otto Vermeulinger, Le canon de latin au temps de Jérôme et d'Augustin, che mostra assai bene come sulla questione dell'estensione del canone, sul valore degli apocrifi, sulla scelta e il rifiuto della Settanta o della verità ebraica, si svolse nell'ultimo scorcio del IV secolo e agli inizi del V, un grosso dibattito all'interno del quale vanno inserite polemiche come quella con Rufino sulla Settanta o quella con Agostino. In generale si può dire, secondo lo studioso, che le prospettive emergenti sono due: una dogmatica ed esegetica, solo alcuni libri possono essere utilizzati nell'argomentazione teologica, ed una liturgico-pastorale. Libri canonici sono quelli a cui l'uso liturgico conferisce forza dogmatica e carattere canonico. Un complesso intreccio, di cui non possiamo qui certo rendere conto, lega dunque le discussioni sul canone e sulle versioni, oggetto di specifiche polemiche, al dibattito dottrinale. Ora, un'analisi in tal senso delle citazioni scritturarie presenti nelle opere controversiali di Gerolamo appare di grande interesse, e anche a questo proposito possiamo fare riferimento a uno studio che, per esplicita dichiarazione del suo autore, si collega a quello appena citato di Vermeulinger e che si legge nella stessa miscellanea. Mi riferisco all'articolo di Flavio Nuvolone, Le citation biblique dans les contra Jovinianum de Jérôme, matériaux pour une analyse. L'autore identifica citazioni, parafrasi, reminiscenze, rinvia al testo biblico e abbozza qualche considerazione in rapporto alla teoria geronimiana del canone. Dalla lista realizzata da Nuvolone per l'Adversus Jovinianum si rileva l'assenza di Abdia, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, di scarso interesse, secondo lo studioso, in relazione agli argomenti trattati, e di Baruch, Lamentazioni, Ester, Giuditta, Tobia, primo, secondo, Maccabei, da Gerolamo non ritenuti canonici e quindi intenzionalmente evitati all'interno di un dossier destinato a stabilire dei punti dottrinali. Ciò, benché giudici Tobia ed Ester, ben avrebbero potuto illustrare i temi in discussione, donna, matrimonio, verginità. Per quanto riguarda il Nuovo Testamento, i libri assenti sono Filippesi e secondo, terzo Giovanni. Benché Nuvolone non analizzi i dati che fornisce e non li confronti con quelli relativi ad altre opere, la sua intenzione mostra comunque una strada che può utilmente essere percorsa. Da un rapido sondaggio da noi effettuato sulle edizioni di Lardè e Moreschini è emerso come accanto a scelte certamente legate alla convenienza e all'occasione polemica, ci siano nelle tre opere, quindi compresa l'Adversus Jovinianum, omissioni costanti come quella di Tobia, primo Maccabei, Baruch, Abdia, Sofonia, secondo, terza Giovanni. Comunque solo un attento esame dei contesti e dei contenuti può dare spiegazioni di omissioni e inserzioni. Naturalmente le piste di ricerca per ciò che concerne le citazioni bibliche non si esauriscono in quelle a cui abbiamo finora accennato. Per una loro valutazione bisognerebbe prendere in considerazione elementi come la lunghezza delle citazioni, il rapporto fra il numero di esse e l'estensione dello scritto, la loro distribuzione in relazione alle diverse parti dell'opera, delle opere, il rapporto con le citazioni da autori profani, la forma isolata o raggruppata, le ricorrenze dei singoli versetti nelle diverse opere dello Stridonense. Così, ad esempio, per la definizione della natura e del carattere dello scritto, è certamente significativo l'alto numero di citazioni scritturali esplicite nell'Adversus Helvidium, un centinaio in 23 colonne di PL, e la quasi totale assenza, per converso, di citazioni o riferimenti ad autori profani. Soprattutto se tale dato si confronta con quello relativo ad altri scritti, più o meno della stessa estensione, quale l'Altercatio, circa 50 in 28 colonne di PL, o l'Adversus Vigilantium, 15 su 15 colonne. Né sono senza interesse i dati forniti da Lardè sulle proporzioni dei riferimenti scritturali nell'Apologia, nella quale citazioni dichiarate o allusioni trasparenti occuperebbero uno spazio pari rispettivamente al 6,2, 3,4 e 7,7% del volume rispettivo dei tre libri. In totale, assieme alle referenze alla letteratura profana, non meno di un decimo dell'opera è costituito da citazioni. Altrettanto significativa la loro concentrazione, la concentrazione delle citazioni in ben determinate sezioni, soprattutto quelle confutative in genere, nelle parti marcatamente dottrinali. Quanto alla forma, poi, le citazioni bibliche sono sovente presentate come veri e propri florileggi tematici, introdotte di solito da formule che ne mettono in evidenza la funzione strutturale. Queste rassegne oppongono all'avversario il muro invalicabile dell'auctoritas scritturaria. Ascolta, scrive Gerolamo nel Contra Pelagianus 1.35, ascolta le testimonianze della scrittura affinché il tuo stolto, anzi empio, interrogare taccia per sempre. Almeno programmaticamente, la scrittura mette fine e insieme si oppone al vano argomentare e alle astuzie della dialettica. Il tuo ragionamento è astuto, oppone Attico all'avversario, ma non capisci che la tua argomentazione va contro le sacre scritture. E dichiarazioni simili si possono ritrovare in tutte le opere polemiche, ad esempio nell'Adversus Ioannem Hierosolimitanum 33, acervatim testimonia ponam, cursinque per stringam, ut toto contravenenatam argumentationem, scripturarum pondere dimicemus. Ai campi libere declamationes si oppongono i latissima scripturarum spazia, che bisogna percorrere alla ricerca di sicuri punti di riferimento dottrinale. La scrittura è insieme una casa stabile, l'immagine di Lardè, e l'infinita mobile distesa nella quale cercare la verità. Quelle che Hagendal definiva le acque stagnanti delle citazioni senza fine, all'interno degli scritti polemici geronimiani, sono in realtà assai meno stagnanti di quanto pensasse lo studioso. Le lunghe serie di citazioni vanno oltre il topos retorico per assumere, lo si è detto, un ruolo strutturale che va sottoposto a valutazione e di cui volta a volta va ricercata la direzione di senso. Così, ad esempio, nell'Apologia, benché la scrittura abbia un significativo ruolo tematico, abbiamo visto che essa rientra fra i temi proprio della discussione, e benché sia presente con un alto numero di citazioni, nella strutturazione della polemica essa non ha però lo stesso ruolo che ha ad esempio nell'Adversus Helvidium o nell'Adversus Jovinianum, dove Gerolamo discute in modo attento e puntuale i riferimenti scritturali degli avversari. Anche tra queste due opere vi è poi differenza, ad esempio nel modo in cui l'autore confuta citazioni ed esegesi degli avversari. Nella prima, ai testimoni elvidiani, è applicata la tecnica delle questioni e degli scoli esegetici, e quei testimoni diventano oggetto di un'analisi attenta linguistica e filologica, mentre gran parte delle proprie citazioni scritturarie è posta come pezza d'appoggio e sono snocciolate una dopo l'altra con una certa rigida legnosità. Nell'Adversus Jovinianum, invece, la confutazione gioca su tutti i possibili registri e ad osservazioni sulla lettera del testo sacro si accompagnano rilievi contenutistici ed esegetici assai più significativi. Quanto alle citazioni, poi esse sono sostegno e punto di partenza delle argomentazioni. Strutturate nelle forme più varie, si fondono sempre e comunque al tessuto della controversia, che mostra in tal senso un alto grado di elaborazione retorica che investe lo stesso uso della Bibbia. Fin qui abbiamo parlato di citazione, ma in realtà, come tutti ben sappiamo, il concetto di citazione è assai poco netto. Les embarras de la citation sono effettivamente tali. Le scelte di critica testuale presuppongono in tal senso un lavoro di critica letteraria, allo scopo di distinguere, nei limiti del possibile, fra reminiscenze, allusioni, riferimenti, citazioni adattate ai bisogni del contesto e vere e proprie citazioni. In uno scritto polemico e ai fini di un'analisi contenutistica, una simile operazione diventa poi assolutamente fondamentale. Come stabilire un criterio di differenziazione? Più che quello della ripresa letterale o meno del testo, ritengo che bisognerebbe valutare l'intenzione dell'autore di riportare parole non proprie, nella maggior parte dei casi denunciata dalla presenza di specifiche formule introduttive. Elementi strutturalmente costitutivi e non esterni alla citazione stessa, esse fungono da demarcatori rispetto all'insieme del testo. La citazione, infatti, interrompe il fluire del discorso segnalandosi come altro da esso. Le formule introduttive sono, è noto, le più varie, da quelle che conferiscono statuto di autorità al testo che introducono, a quelle che esplicitano la funzione attribuita alla citazione, deittico dimostrativa, asseverativa, contrastiva, eccetera, a quelle ancora che segnalano soltanto l'interruzione del testo primario. Talvolta l'innesto della citazione avviene senza alcun demarcatore di passaggio. Un nome proprio o un toponimo possono avere di per sé funzione di apertura della citazione. Anche una sfasatura del livello stilistico basta a sottolineare il manifestarsi di una materia diversa, spesso più elevata. È comunque indubbio che la leggibilità funzionale dell'inserto è favorita dalla presenza dei demarcatori. Al di là delle formule introduttive, si può dire che c'è citazione scritturaria, secondo la formulazione di due specialisti come Benoit e Prigent, quando un autore cita un testo come étant emprunté à l'écriture, c'est-à-dire quand le contexte indique d'une manière ou d'une autre que l'auteur pense à faire une citation. Certo, un tale criterio lascia margini all'arbitrarietà e comunque alla soggettività interpretativa, ma per quanto riguarda Gerolamo sono abbastanza evidenti le distinzioni fra quelle che egli intende far passare come citazioni, alle quali attribuisce un ruolo strutturale, come abbiamo più volte rilevato all'interno dello scritto, e i riferimenti anche testuali alla Bibbia. Faccio subito un esempio che dia concretezza al discorso. Nell'apertura dell'Apologia contra Rufinum leggiamo: «Et vestris, et multorum litteris, didici obici mi in scola tiranni, a lingua canum meorum ex inimicis abipso». Nella duplice edizione di Lardet, «in scola tiranni», lingua canum e ex inimicis ab ipso sono rilevati mediante l'uso del corsivo come citazioni e in apparato vengono puntualmente indicati i passi di riferimento, Atti 19:9 e Salmo 67:24. E come citazioni sono registrate nell'indice. Niente da ridire ovviamente sotto il profilo della correttezza metodologica, si tratta effettivamente di riprese pressoché letterali dei due contesti indicati. Ma chi è interessato ad uno studio della tipologia e della funzione delle citazioni non può considerare tali quelli che chiaramente sono e vogliono essere riferimenti allusivi. Bastava forse che l'editore indicasse in apparato le fonti bibliche, riservando il corsivo alle vere e proprie citazioni, e comunque comprendesse questi fra i riferimenti, sono espressamente indicati nell'indice, e non come citazioni, nonostante, ripeto, la ripresa letterale del testo. Gerolamo intende evidentemente inserire nel nuovo contesto le parole della scrittura, sviluppandone al massimo l'allusività, come del resto non sfugge allo stesso Lardè, il quale nel suo commentario rileva che il richiamo ad Atti 19:9 opera come una trasparente allusione al nome dell'avversario. Nel caso del Salmo, poi, è lo stesso testo ad essere modificato, dalla sostituzione di meorum a tuorum, cosa evidenziata graficamente dall'editore, costretto però così a variare in continuazione caratteri, ma anche dal cambiamento del caso di lingua, nominativo nell'originale, ablativo nel riuso di Gerolamo, questa volta non evidenziabile. Mentre la citazione, come abbiamo accennato, resta autonoma rispetto al contesto in cui è inserita e con cui entra in tensione, il riferimento allusivo invece viene inglobato nel nuovo testo, adattato ad esso, e il lettore è chiamato a riconoscerlo. Si noti come manchino nel nostro testo i demarcatori di cui parlavamo prima. Inoltre, per ciò che concerne i riferimenti, ad essere operativa nel senso indicato non è solo la stretta porzione di testo richiamata, che ha solo funzione di motto, per usare un termine pasqualiano, ma l'intero contesto da cui essa è estratta. Il richiamo evocativo alla scuola di Tiranno, ad esempio, è all'intero capitolo degli Atti e non solo al nome proprio, su cui esclusivamente si appunta invece l'attenzione di Lardè. In quel capitolo è questione di alcuni che si ostinavano e si rifiutavano di credere dicendo male in pubblico di questa nuova dottrina, e Paolo si sarebbe allora staccato da loro, separando i discepoli, e avrebbe continuato a discutere ogni giorno nella scuola di un certo tiranno. La situazione biblica è dunque attualizzata dalla nuova lacerazione in seno alla comunità. Essa però è in qualche modo invertita, e mentre Paolo è costretto a staccarsi da quanti rifiutavano la retta dottrina, qui è Rufino la causa della scissione e l'origine della diffamazione. Salto tutta la parte relativa alle allusioni, perché non ce la facciamo. L'esegesi. Una seconda forma in cui la Bibbia è presente nelle opere polemiche è quella dell'esegesi. Il condizionamento della polemica nell'interpretazione dei testi biblici è fatto tanto rilevante quanto solitamente trascurato, almeno nei suoi tratti generali. Per quanto riguarda Gerolamo, basterà accennare al saggio di Pierget sur Jérôme et la pratique de l'exégèse in Bible de tous les temps, in cui il riferimento alla presenza della Bibbia negli scritti polemici si riduce a questa rapida annotazione. La scrittura, dice Jé, non è assente da opere come i trattati polemici. Il ricorso ad essa, se per un verso è da collegare alla tradizione antieretica, per un altro è espressione di un temperamento combattivo che più di una volta tende a stravolgerne l'uso. L'impiego polemico della scrittura non è dunque ritenuto meritevole di autonoma indagine per una migliore intelligenza della pratica esegetica geronimiana. La tendenza si conferma nel recente volumetto Virtri Linguis, che abbiamo già sentito ricordare, di Dennis Brown, nel quale nessuno spazio è dedicato al nesso esegesi polemica. Eppure non sono pochi i contesti polemici in cui Gerolamo presenta proposte interpretative originali e comunque meritevoli di essere prese in considerazione. Le leggi del genere garantiscono infatti al polemista libertà che sono invece negate all'autore del commentario esegetico, il cui propositum non è quello di mettere in evidenza le proprie parole, ma di fare in modo che quea balio dicta sunt, ita intelligandur ut dicta sunt. Assieme alla libertà ci sono poi le necessità del confronto ideologico, che talora si risolvono in uno stimolo e conducono a soluzioni innovative, le quali avranno un certo peso nella storia dell'esegesi. Basti ricordare quella dei fratelli di Gesù avanzata nell'Adversus Selvidium. Negli scritti a carattere controversiale, l'esegesi della scrittura può essere usata per una varietà di propositi che non necessariamente si escludono a vicenda. Ad essi corrisponde una potenziale varietà di sensi. Il figurato è valido tanto quanto il letterale, e quello numerologico e cogente quanto quello storico. Ciò fa sì che non ci sia una scelta preliminare e univoca da parte dell'esegeta polemista, che passa senza problemi da un assoluto letteralismo al più sfrenato allegorismo. In qualche caso, come già abbiamo rilevato, per le traduzioni l'esegesi diventa essa stessa centro e oggetto di un confronto polemico, e ancora una volta il caso più noto è l'interpretazione della lettera agli Efesini, chiamata in causa nella disputa con Rufino. In questi casi l'esegesi ha certo uno sviluppo consistente, altre volte invece essa si riduce a pochi cenni, quanti bastano ad orientare il lettore nella direzione richiesta dalla polemica. Altre volte ancora è il contesto stesso ad orientare sul senso da attribuire alla citazione biblica, che non è accompagnata da nessuna spiegazione particolare. Ma è possibile. Indicare alcuni caratteri specifici di un uso polemico dell'esegesi, io ne ho individuati alcuni che qui propongo. Innanzitutto la dilatazione dei confini dell'arbitrarietà. Se l'atto interpretativo ha sempre margini di soggettività che si esprimono nella scelta degli elementi da commentare, del metodo da applicare, delle pezze di sostegno, eccetera, è evidente che in contesti come quelli che stiamo analizzando, tali margini crescono spesso considerevolmente. La libertà di cui il polemista gode però non è arbitrio, e le reazioni suscitate a Roma dall'esegesi della pericope paolina di Primo Corinzi 7 nell'Adversus Joviniano sono una conferma sufficiente, credo, di ciò che succede quando si oltrepassa la misura. C'è poi l'assenza, non solo formale, di qualsiasi sistematicità. L'interprete non procede in modo continuo né adotta criteri uniformi. Il suo obiettivo, lo abbiamo detto più volte, è quello di sconfiggere l'avversario. L'esegesi del testo sacro, in tale ottica, è essa stessa una delle armi di cui egli dispone. Terzo, il ruolo sostanziale dell'esegesi, anche quando essa non è esplicita o esplicitata. Se, come appunto avviene in scritti polemici, le citazioni scritturarie sono addotte allo scopo di sostenere un'affermazione e di conferirle autorità, questo può avvenire solo a condizione che oppositore e pubblico colgano quei riferimenti nel senso che l'autore vuole. C'è sempre quindi un'interpretazione, sottesa anche al singolo atto di citare. Quarto, l'attualizzazione e la finalizzazione del riferimento scritturario. In ciò, l'opera polemica, più che al trattato esegetico, è vicina all'omelia. Mentre in quello l'attualità fa solo da sfondo all'esegesi del testo sacro, né espresso premessa sostanziale ma non esplicita, nell'omelia invece, come in fondo nei nostri scritti, la parola sacra viene continuamente riferita e adattata alla realtà, alla quale riconducono espressi e continui riferimenti. L'impatto del testo sul lettore, del resto, è assai più forte e immediato nelle seconde che nel primo. Quinto, la sostanziale subordinazione dell'esegesi alla retorica e alla dialettica. Poiché anche l'interpretazione è strumento di persuasione e serve a strappare un consenso, si capisce che anche ad essa si applichino sottili sofismi e sofisticati schemi dialettici. L'effetto è spesso uno snaturamento delle espressioni bibliche estrapolate dai loro contesti originari ed inserite con forza in contesti nuovi. Il carattere arbitrario di questo tipo di esegesi è fatto passare, per così dire, sotterraneamente dal polemista, che ricorre a tal fine proprio agli strumenti che gli mette a disposizione la retorica. Si parte di solito dal senso dato per certo ed univoco di un testo considerato a tal fine come evidente in sé, e su una simile premessa si costruisce con metodo deduttivo una sorta di catena di senso che spinge il lettore nella direzione voluta dall'autore. Sesto ed ultimo, il rapporto fra correttezza ermeneutica ed ortodossia di fede. Nello stesso contesto dell'altercazzo da cui abbiamo tratto l'espressione scritture non in leggendo, eccetera, Gerolamo apostrofa gli eretici. Non si illudano, dice, che la Bibbia dia sostegno e forza alle loro argomentazioni, poiché anche il diavolo si è servito di essa. Nec sibi blandiantur, si descripturarum capitulis videntur sibi ad firmare quod dicunt. Cum et diabolus de scripturis aliquas sit locutus. Con queste espressioni, peraltro comuni in opere dello stesso genere, Gerolamo rileva costantemente il rischio dell'interpretazione non ortodossa della scrittura. E salto altri esempi che poi troverete nel testo. Veniamo all'ultimo capitolo di questa nostra rapida carrellata, quello che concerne l'esemplarità. Gli exempla, come si sa, non sono esclusivi dell'edificazione della Parenese, dove hanno una specifica funzione paradigmatica, ne operano solo come elementi costitutivi dell'ornatus, come figure di pensiero con funzione prevalentemente estetica. Già nella tradizione classica essi possono avere una funzione probativa, mirando al docere, al probare, più che al movere, al delectare. Il loro specifico ambito d'uso in tal senso è quello dell'oratoria, in un primo tempo quella deliberativa, poi anche quella giudiziaria e controversiale. In due studi precedenti abbiamo analizzato ruolo e modalità di funzionamento dell'exemplum scritturario all'interno dell'adversus iovinianum, cercando di leggere i casi concreti alla luce della riflessione teorica dei retori classici sulla tematica esemplare. Abbiamo così potuto verificare che solo fino a un certo punto Gerolamo è tributario della tradizione retorica profana, da lui adattata alle nuove esigenze contenutistiche e formali della polemica dottrinale, e talvolta superata completamente, destrutturata dall'interno, per così dire. Lo studio degli esempi biblici adoperati nei contesti controversiali ha dunque più di una ragione di interesse. Sotto il profilo della teoria ermeneutica, per la contiguità di funzioni come quella esemplare e tipologica, sotto il profilo esegetico, come spia dell'interpretazione di vicende e personaggi della scrittura, sotto il profilo della storia culturale, con riferimento al progressivo trasformarsi delle antiche categorie retoriche sotto la spinta d'urto delle ragioni del cristianesimo, e infine sotto il profilo meramente retorico. Salto tutto il resto, ricordando soltanto un recentissimo saggio di Pierre Amblin, L'exemplum formel dans l'œuvre conservée de Jérôme, sono ben 50 pagine su Augustinianum, che offre spunto di grande interesse nella prospettiva a cui abbiamo accennato. E vado alle conclusioni. Identificati gli ambiti più significativi della presenza della Bibbia nelle opere polemiche, riprendiamo rapidamente alcuni degli aspetti accennati prima. Dal discorso fin qui svolto dovrebbe essere emerso il fatto che, come forse più che per gli altri polemisti cristiani, per Gerolamo la Bibbia costituisce in qualche modo l'ossatura delle dispute che volta a volta lo vedono opposto ad avversari diversi nel corso di tutta la sua esistenza. Ciò anche al di là dell'oggetto contingente della controversia, che può essere immediatamente scritturario, come nel caso dell'adverso del Vidum o dell'adverso Iovinianum, ma può anche non avere alcun rapporto diretto col testo sacro, come l'Altercatio o l'adverso su Ioannem o l'adverso su Vigilanzio. Oppure averne uno implicito e immediato, come per l'adversus Rufinum o il dialogus adversus Pelagianus, dove la scrittura fa, per così dire, da retroterra a questioni che comunque, almeno in parte, non sono esplicitamente scritturarie. Un siffatto ruolo così incisivo della Bibbia ha un aspetto ovvio e non esclusivo degli scritti geronimiani, trattandosi in ogni caso di dispute intorno alla dottrina che nelle scritture, quindi in un modo o nell'altro, affonda le sue radici. In qualche caso poi è probabile che Gerolamo sia stato sollecitato a intervenire proprio come specialista del testo sacro, per cui è evidente che questo assume un ruolo preponderante nella struttura della computazione. C'è però anche un aspetto estremamente suggestivo messo in luce dall'Ardè nel suo commentario all'Apologia. Se il marchio specifico dell'eresia è l'instabilità, la scrittura, quella con la S minuscola, costituisce in qualche modo per Gerolamo un antidoto ad essa e scongiura il pericolo della precarietà. A maggior ragione la scrittura con la S maiuscola è per lui norma veritatis, una sorta di cittadella della verità nella quale trovare rifugio, tanto più in assenza della sicurezza del dogma che lo spinge, o forse lo costringe, a preferire contro l'eresia la mise en œuvre di una strategia all'elaborazione di un teorie. Alle necessità contingenti si aggiungono Una codificata tradizione letteraria, quindi, ma anche ragioni personali profonde. Norma veritatis, la Bibbia è pietra di paragone dell'ortodossia e insieme arma contro la deviazione da essa. La retorica, dal canto suo, fornisce gli strumenti adeguati per un uso controversiale della parola sacra. Il ruolo della retorica negli scritti controversiali di Gerolamo è quindi da studiare più a fondo. Essa non costituisce solo un elemento della cultura dell'autore, né un fatto meramente formale. Contrapposta tante volte espressamente alla semplice verità delle scritture, la retorica però condiziona, come abbiamo visto, il ricorso ad esse. Rifiutata programmaticamente come espressione di una preminenza dei verba sui sensus, contraria allo spirito genuino del cristianesimo, essa però rientra in gioco nel concreto delle singole dispute, dove la trascuratezza espressiva o comunque il cattivo uso delle norme retoriche fanno parte del repertorio comune delle accuse rivolte agli avversari del momento. L'ambiguità è costante nel Gerolamo controversista, nel quale, malgrado le sue dichiarazioni, sembra proprio che al contrario ci sia un nesso preciso fra la purezza di fede basata sulla corretta interpretazione della Bibbia e la purezza del linguaggio. L'idea di norma comune alle due realtà e opposta all'idea di deviazione da essa, l'errore, potrebbe forse essere una chiave interpretativa per un superamento dell'antinomia. Siamo così giunti al termine del nostro discorso. Vogliamo deliberatamente astenerci da ogni conclusione relativa alle questioni affrontate, ribadendo invece la convinzione espressa all'inizio della necessità di un attento e puntuale lavoro analitico. Spunti e piste, mi pare ce ne siano tante, eppur nei disiecta membra del mio intervento spero di essere riuscito a mostrare quanto ricco di prospettive sia uno studio delle varie forme della presenza scritturaria nelle opere polemiche di Gerolamo. Una ricerca in tal senso ovviamente non potrà fare a meno di guardare simultaneamente alla storia della tradizione del testo sacro, alle vicende legate alle diverse traduzioni geronimiane, agli scritti degli avversari, per quel che ne sappiamo, alle altre opere dello stesso Gerolamo, e soprattutto alla tradizione polemica greco-latina, e da valutare la lunga evoluzione della forma controversiale, testimoniata anche nel corso di tutta la letteratura cristiana. Sappiamo che ogni elemento di un determinato genere, infatti, non è statico, ma assume un senso sempre diverso nei diversi campi in cui si trova ad operare. Solo in una simile prospettiva si potrà cogliere il significato specifico di quegli elementi, apprezzandone la novità anche in relazione ai diversi modelli. Un'ultimissima considerazione. Quando si deve valutare il ruolo della retorica negli scritti geronimiani, si oscilla dalla posizione di chi ne considera assolutamente ovvia e scontata la presenza, e quello invece, espresso recentemente da Amblène nel suo studio sull'exemplum, di chi arriva ad assimilare la retorica alla filosofia per ciò che concerne il disinteresse di Gerolamo. L'ars dicendi maior, o la teoria dell'argomentazione, scrive Amblène, gli è rimasta indifferente, tanto quanto la speculazione filosofica. Le due posizioni mi sembrano francamente inaccettabili. Come non è possibile trarre conclusioni di ordine generale da un'indagine lessicale, quale quella di Lardet, di Amblène, pur accurate e di ampio respiro, così non si può neanche liquidare come inutile, scontata, ripeto, una ricerca sulla funzione e sul condizionamento della retorica nell'opera geronimiana. Esistono forme di adattamento diverse alla tradizione, accanto a forme addirittura di superamento dall'interno degli schemi e dei contenuti di quella. In ogni caso, l'indagine è tutta da fare e non credo proprio, dai primi saggi, che essa lascerà senza risultati. Ciò a condizione che si superi un pregiudizio antiformalistico e, per altri versi, si sia disposti ad avere un approccio alla retorica non come fatto estetico ma contenutistico. Grazie per questa ampia relazione, da cui hai dovuto tagliare gli esempi, naturalmente molto interessante per questo riesame delle citazioni che di solito vengono considerate qualcosa così di meccanicamente introdotto nel testo, invece hai fatto vedere gli agganci e le funzioni che esse hanno.